Fish24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Siamo ancora insieme come ogni sabato sera per la nostra full immersion nella lingua inglese e questo mese abbiamo deciso di dedicarci agli scrittori. Settimana scorsa abbiamo sentito un'intervista di Clive Cussler, questa volta invece andiamo in una storia al femminile che è quella di Catherine Dunn, una scrittrice molto famosa, 11 anni fa, il suo primo fortunatissimo romanzo, La metà di niente. In questi giorni ha presentato in Italia il suo ultimo romanzo, Sesta sera siamo qui, una celebrazione dell'amicizia, la storia di quattro donne. Perché parlare di un gruppo di donne? Glielo ha chiesto Alessandra Tedesco. Well, first of all, friendship has been something that has always sustained me all my adult life. And I knew I wanted to write a book about friendship. I just wasn't quite sure how I was going to approach it. And when I started to think about it, it seemed to me that the friendship between two women, for example, is quite uncomplicated because they are close, they share things, they can trust each other. So never satisfied with the simple, I decided I would like to try and look at what happens when a group of four very different, very competitive women become friends with all of the uncertainties and insecurities and betrayals and jealousies that might be part of a long-standing relationship. Giulia, allora, come mai Catherine Dunn ha scelto una storia tra donne e soprattutto una storia di amicizia tra donne? Sì, lei vuole spiegare che comunque la friendship, che non sia così senza genere, è qualche cosa, quindi l'amicizia, qualcosa che has always sustained me, quindi non sustained me, quindi non il simple past, ma il past perfect, has sustained me, che sappiamo che è quella forma verbale che indica un'azione che è durata per molto tempo, e infatti il significato è mi ha sempre sostenuto all my adult life, per tutta la mia vita adulta. Tra l'altro avrete sicuramente notato l'accento irlandese, poi magari in un paio di altre parole ve lo facciamo notare, un accento un po' particolare, non difficile da comprendere, ma sicuramente diverso da quello inglese. Non difficile da comprendere, infatti molti avranno capito che lei ha raccontato anche una sorta di progressione, difficile raccontare la storia tra due amiche, lei ne ha scelte quattro. Sì, perché dice friendship between two women, it's quite uncomplicated, cioè dice quite, sappiamo che vuol dire silenzioso, ma vuol dire anche semplice, quindi, ma anche in questo caso, se lo affianchiamo a un altro aggettivo, in questo caso quite uncomplicated, parecchio non complicata, un modo un po' astruso per dire quindi semplice, per l'appunto. Ed è, e quindi lei dice, since I'm never satisfied with the simple, siccome io non sono mai soddisfatta con le cose semplici, noi diciamo essere soddisfatti di qualcosa, gli inglesi dicono essere soddisfatti con qualcosa, e quindi ha scelto di moltiplicare le amiche. Prima che ci bacchettino sulla lingua scritta, quiet e quiet si pronunciano allo stesso modo, si scrivono diversamente. Certo, quiet si scrive con TE finale e l'altro invece si scrive con ET finale, quindi si invertono le due lettere finali. Si invertono le due lettere finali, una cosa complicata come questa amicizia invece tra quattro donne. Ma perché Catherine Dunn ha preso questa decisione? Non è stata una decisione facile, è stata una decisione molto maturata. Sì, perché dice appunto due donne poteva essere non sufficientemente, fin troppo semplice, quindi ho preso four women, very competitive one, quindi quattro donne molto competitive, molto diverse, e le ho messe insieme per vedere appunto di rendere la storia molto più speziata. Ovviamente il numero 4 ci riporta con la mente a una storia in questi anni molto famosa, una serie televisiva, un film, Sex and the City. Lo avranno pensato tutti, ma a Catherine Dunn questa idea è venuta in mente? Le è venuto in mente che poteva assomigliare, poteva ricordarci Sex and the City? I don't think it has anything in common with Sex and the City for a start. Dublin is was at the time when these young women met a very unglamorous place. They are, I suppose, much less sophisticated, for example, than the characters in Sex and the City. This novel for me in many ways is coming full circle, because with my first book I had wanted to write four separate stories about women friends that were intertwined, but I simply didn't have the experience as a writer to do it. So one of those stories eventually became my first novel. So for me personally, and I can't speak about other people, but for me personally it was a challenge to go back after 15 years with several other books under my belt, as it were. So that was my motivation. Might be part of a long-standing relationship. Ecco qual è la sua motivazione per aver scelto questa storia tra quattro donne. Sicuramente Sex and the City, le ha detto, non c'entra. No, la fa quasi sorridere la cosa, non perché non le piaccia Sex and the City, ne parla con grande rispetto, però dice no, my characters don't have anything in common with, quindi non hanno niente in comune con i characters di Sex and the City, perché dice Dublin, che è Dublino naturalmente, was at the time, perché naturalmente il romanzo ripercorre la storia di queste donne, quindi quando si incontrano è successo già parecchio tempo prima, non ai tempi giorni, quindi lei dice was at the time they met a very unglamorous place. Qui notate che in inglese si dice un, no? UN, lo pronunciano come se fosse scritto con una A, un irlandese c'è una via di mezzo che è molto più simile alla O, quindi lei dice unglamorous place anziché unglamorous place come direbbe un inglese o un americano. Lei è proprio irlandese, appunto, questa storia che è una storia dublinese, che però ha un'origine proprio nella sua carriera, nella sua storia di scrittrice. Sì, Catherine Dunn in questo anche, secondo me, molto dimostra una grande intelligenza, anche una grande umiltà. Dice, all'inizio, my first novel era, lei aveva pensato a four separate stories that intertwined, quindi quattro differenti storie di quattro donne che si intersecavano, to intertwine. E però dice I didn't have the experience as a writer to do it, quindi come scrittore non avevo l'esperienza per riuscire a compiere questo processo di intersecare le storie senza magari rendere farraginoso il racconto. È chiaro che le quattro storie nella sua testa c'erano, le mancava l'esperienza per renderle sufficientemente bene, sufficientemente interessanti per il lettore, e quindi alla fine sappiamo che poi lì la situazione è stata semplificata, e quindi lei dice questo libro è un challenge to go back, una sfida per tornare indietro, tornare a quel punto iniziale, al mio sogno iniziale di quattro storie che si intersecano. Alessandra Tedesco, poi, che ha fatto questa intervista a Catherine Dunn, le ha fatto una domanda che tutti noi avremmo voluto fare. Certo, tante donne, ma perché invece i ruoli maschili sono sempre in secondo piano? Because I have chosen to put female characters in the foreground. And I find this constantly to be an interesting question. That male novelists, for example, who will have male protagonists, are never asked this question. So I deliberately choose as a writer to, if you like, redress this imbalance. And I like to have women at the center of the stories and women at the center of their own lives. It's not necessarily something which reflects on anybody's life, but as a writer, I have chosen to put women in the foreground, in the public space, if you like, which is often a space that's occupied by men. And I've left men in the background, as women have often been left in the domestic space in literature. Io lo so che adesso qualcuno si è divertito a sentire, a cogliere l'accento irlandese come questo public. Però è molto comprensibile l'accento, dobbiamo dirlo. Allora, perché ha deciso Catherine Dunn nella sua bibliografia di lasciare sempre gli uomini un po' in secondo piano? Anche qui la domanda dice mi fa sorridere, perché il fatto che io metta female characters in the foreground è una parola molto meno conosciuta e usata fuori dall'Inghilterra che non background, ma è esattamente il suo contrario, cioè background lo usiamo anche noi tantissimo, no? Che vuol dire quello che viene prima, quindi il retroterra, ciò che sta dietro. Foreground è semplicemente ciò che sta davanti, quindi in primo piano. Quindi i suoi personaggi femminili sono in primo piano, e dice I find it very interesting, che questa trovo molto interessante, che questa domanda non venga mai posta agli uomini, agli scrittori uomini, che ovviamente mettono nel foreground dei male protagonist, cioè dei protagonisti maschili, perché nessuno chiede mai loro, ma come mai gli uomini in primo piano e invece a me lo chiedete? Dopotutto Catherine Dunn dice anche questo succede in generale in letteratura. Sì, dice quindi io ho proprio deciso to readdress this imbalance, di raddrizzare questo disequilibrio, e perciò ho messo le women at the center of my stories, al centro delle mie storie, e nelle mie storie le donne sono at the center of their lives, quindi sono protagoniste delle loro vite. E lei dice in questo, addirittura lo chiama public space, naturalmente uno scrittore spera sempre di avere anche un ruolo sociale, quindi dice certo è un libro, però vorrei che questo si riflettesse poi naturalmente anche nella vita reale, e non come è sempre successo che le donne erano lasciate nel background anche della literature, cioè nello sfondo della letteratura, perché la letteratura purtroppo è sempre stata quasi, insomma, ha avuto come protagonisti la maggior parte dei secoli gli uomini. Per chi fosse curioso di sapere qual era questo libro, lo abbiamo citato all'inizio, Catherine Dunn, il suo ultimo romanzo, Se stasera siamo qui, l'ha intervistata Alessandra Tedesco. Il nostro appuntamento per questa sera si conclude qua, ma potete tenere in esercizio il vostro inglese per tutta la settimana con il mensile English 24 in edicola. Ringraziamo Giacomo Spunta in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.